des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Devo rettificare, anche se con un po' in ritardo, l'annuncio che detti venerdì scorso dicendo il 13 parleremo di donne. No, il 13, essendo una domenica, ne parleremo venerdì. Venerdì dedicherò la puntata alle donne. Non lo faccio con intento polemico, né satirico, né voglio prendere in giro, né voglio sottostimare quella che sarà l'istanza di piazza delle donne italiane, ma vorrò far parlare le mie donne, mie fra virgolette, le donne che ascoltano questa trasmissione avranno modo di esprimersi, di dichiarare, di fare il punto su quanto si sentono ancora in diritto di rivendicare il sopruso nei confronti di chi le considera soltanto un corpo, soltanto un oggetto di piacere, o chi pensa che siano una complessità talmente ineffabile e difficile da definire che non basta la vita di un uomo per capire semplicemente una virgola di quello che sia la donna, un'eterna sorpresa. Già dicendo questo mi classifico come un radicale e incurabile e infantile adolescenziale maschilista. Forse così, forse non è così, ma capitemi, mi stanno mancando i punti di riferimento. Dopo la scomparsa di Maria Schneider, ieri è stata offuscata la mia fantasia, il mio ricordo, la mia tenerezza verso il femminile da un'altra inestricabile possibilità di soffrire per un lutto. È morta Tura Satana. Tura Satana chi è? Tura Satana era una simpatica ragazza, un po' giapponese, un po' indiana Cherokee, un po' americana, molto indefinibile, molto strana, figlia di un attore di film muto e di una contorsionista. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu internata in un campo di concentramento in California, perché? Perché era anche giapponese, quindi faceva parte del nemico. Si spostò poi con la famiglia a Chicago, a 9 anni fu stuprata da 5 uomini, iniziò a prendere lezioni di arti marziali, si sposò con un matrimonio combinato, divorziò subito, cominciò a lavorare come danzatrice esotica e a 14 anni entrò a far parte di una gang femminile a Chicago. Nel 63 comincia a fare l'attrice, fa la parte della puttana in Irma la Dolce, ma dopo alcuni film di cui non lascia traccia nella storia diventò l'indimenticabile Varla nel film Faster, Pussycat, Kill Kill, e grazie a questo film diventò una delle eroine che rimangono più immerse nel nostro immaginario. Un film assurdo girato in un deserto in cui 3 ragazze cattivissime, popputissime, crudeli ma anche folli, ammassacrano e uccidono come se niente fosse. Una vita strana, ho visto le sue ultime foto recentemente, è diventata una bomba, un barile, ha avuto un incidente, era lesionata nella spina dorsale. Il suo ultimo film parla di zombie. Beh, adesso che è morta sento fortemente la sua mancanza. Ho questa mattina Giuseppe Sansonna accanto a me, vorrei ricordare solo velocemente Tura Satana e vorrei onorare il voto che ho fatto questa mattina su Facebook. Non voglio parlare di donne per tutta la giornata di oggi, proprio in ricordo di Tura Satana. Tu la ricordi, Giuseppe? Sì, sì, questa picara che girava per il deserto con la sua ferocia, con la sua autodeterminazione femminile, scolpita dalla vita, come hai raccontato tu, ispirò poi Tarantino per le sue eroine feroci e sensuali, queste mistress lanciate a colpi di katana nella vita, e poi la ispirò anche in Grindhouse, in queste donne che girano con la loro macchina per vendicarsi del terribile Kurt Russell, che è uno stuntman killer. Insomma, è un'icona che se n'è andata. In Italia, icone così forti, nasceva disegnata da Rasmeyer negli anni 60 in America, in Italia così forti, questa autodeterminazione femminile non c'è mai stata, perché bisognava sempre metterci vicino il pecoreccio per anestetizzare. Ursula Andress in Colpo in canna di Di Leo poteva essere una di queste eroine, ma fu ammorbata da Lino Banfi vicino. Tura Satana era qualcosa di più di una maggiorata, era una pin-up ancora, accresciuta e massimalizzata. Ma allo stesso tempo era di una sorta di integrità intoccabile, nessuno osava avvicinarla perché era terribile come combattente, come donna. Cioè, c'è una famosa scena di combattimento con un uomo nel deserto in cui un uomo nulla può contro lei, la prende a calci, la prende a pugni, si rialza sempre e è sempre più forte di lui. In questa America arida e brulla la sua crudeltà affilata acquisisce connotati profondamente sensuali, non giustificata ma in qualche parte motivata da quella che poi è stata realmente la sua vita. Beh, questa mattina quindi, siccome non posso parlare di donne, parlerò di un altro tema, di un tema che ha attraversato in maniera pudibonda, nascosta, a volte infame, a volte esageratamente frivola, altre volte con intenti problematici, il cinema italiano, soprattutto il cinema italiano dal dopoguerra a oggi. È il tema dell'omosessualità. Come è stato trattato nel cinema italiano l'omosessualità? Noi abbiamo letture molto recenti, di cui non parleremo, Giuseppe Sansonna. Ospetek e le sue fate ignoranti non ci interessano in questa fase, vero? Ma a me ha fatto ridere molto le fate ignoranti quando l'ho visto al cinema, quando muore Andrea Renzi che salta in aria come un manichino. Ma a parte questa grossolaneria registica, poi lo trovo un po' vacuo Ospetek, un po' troppo manifesto gay. Non mi affascina né come cineasta, tra l'altro, né come uso del linguaggio. Invece è interessante il percorso che si può fare dagli anni 50 a oggi, che oggi faremo attraverso una serie di registi, fra stereotipi, grossolanerie, aggressività verso i gay, invece autodeterminazione e sottigliezze che molti registi hanno avuto. 800240024, questo è il tema e questo è il primo spunto. Il vento è calato, quello laggiù è il molo, vieni a leggermi il quarto atto. Commendatore, Sergio, ma dove vuoi andare? Un posto laggiù lo troveremo. Ma laggiù è buio. Commendatore. Vieni. Vieni. Ti faccio forse paura. Ecco, qui abbiamo un primo assaggio, siamo nei vitelloni, un classico approccio molto molto d'antan, molto segnato. Oggi non se ne parlerebbe più, non c'è nulla di liberato, ma c'è il letter nascosto, quello che veniva considerato un atteggiamento vizioso, e rivelarlo soltanto quando ci si trova in vicinanza dell'oggetto del desiderio. Qui c'è Leopoldo Trieste che viene adescato da Achille Maglieroni, che era questo vecchio attore ottocentesco che aveva recitato in compagnia con Novelli e che nel buio, con questa musica, questo termine, nel buio di Rimini notturna lo circuisce. E il povero Leopoldo Trieste, che pensava di poter accedere a Roma, al mondo dell'arte, dei drammaturghi, invece scopre che lui vuole solamente concupirlo. Su Leopoldo Trieste vorrei spendere una cosa, perché lui era veramente, così io l'ho conosciuto nell'ultimo periodo della sua vita, ancora andava a vedersi film coreani da solo al Quattro Fontane qui a Roma. Era veramente un arrivato a Roma dalla Calabria con la smania di diventare un grande artista, quindi è perfetto in questo ruolo sognante che viene deluso da questo vecchio gay che appare anche un po' grottesco, connotato, l'onirico diventa incubo in Fellini, perché è senza un dente, con questo mascherone. Ecco, l'immagine è comunque ancora un po' inquietante, cupa, quella che viene fornita nel 53. Ecco, nel 53 però era già palese, o perlomeno si diceva, che tra le tante forme di ricatto sessuale che doveva subire un personaggio che aspirante personaggio del mondo dello spettacolo, c'è anche questa forca caudina dover incappare comunque nel produttore, nel regista o nel personaggio potente con inclinazioni tipo omosessuale. Ricordo un altro film in cui Renato Pozzetto, molti anni dopo, giovane ragazzo che di campagna, sono fotogenico, dice sì, che si tinge addirittura i capelli ossigenati, come Brando nei Giovani Leoni, sì, che si trova improvvisamente a dover fare le parti con un regista che gli sfodera una, che è Aldo Maccione, sì, infatti, facendo vedere che aveva un braccialetto da caviglia, gli fa capire l'area. si viene salvata la sua virtù dal fatto che entra un altro ragazzo ex amante di questo regista e fanno botte tra di loro. E quindi fa capire quanto è passato da Fellini, da, che soffonde tutto nel suo onirismo e nel calore della musica di Rota, al bisturi crudele di Risi, che invece appunto il fallico naso di Aldo Maccione si protende verso il povero Pozzetto. 800240024, nella storia della commedia del cinema italiano degli ultimi anni dal dopoguerra ad oggi, come è trattata la figura dell'omosessuale. Ecco, chi oggi si esalta o segue con apprensione e con senso di curiosità le vicende sui giornali di feste, festini, illustri convegni notturni, sappia che già nel film il cui protagonista appunto era un integerrimo censore di cinema, il complesso della schiava nubiana, era fortemente consapevole la società italiana di quel tempo che accadesse qualcosa nelle ville e nei palazzi illustri e privilegiati che non era certo materia di discussione popolare di tutti i giorni. Riceviamo e pubblichiamo. Precisazione. Il noto playboy ingegner Guido Beozzi tiene a precisare di non aver niente a che fare con il professor Gildo Beozzi e di non essergli parente né in linea retta né in linea collaterale. Ultimissima della notte, la doppia vita del professor Beozzi. Ultimissima della notte. Questo è il film che rivela al mondo le parole di passo segrete dei festini che allora erano chiamati balletti viola, balletti rosa, coi balletti sempre. Era pistillo e corolla la domanda favolosa. Viene portato Tognazzi alla ricerca delle foto della moglie che aveva fatto un film scollacciato in una villa misteriosa dove i signori misteriosi, interpretando male il suo essersi messo il burro cacao sulle labbra screpolate, lo invitano a un festino gay in cui sono signori in giacca e cravatta grisaglia che lanciano cerchietti su giovani efebi vestiti da puttini. La domanda per entrare a pistillo corolla. Sì, c'è Tognazzi che interpreta il solito democristiano boiardo di Stato con quei suoi classici occhiali spessi alla Fellini che lo straniscono. Entra in questo Eyes Wide Shut di provincia dove appunto i giovinotti, gli efebi sono ispirati al caravaggesco Bacchino malato e questi lanciano i cerchietti e lui ovviamente irromperà la polizia nel finale con macchine fotografiche e lui verrà immortalato. Abbiamo sentito il pezzo in cui invece il suo omonimo, il playboy che lo scandalizzava sempre, si dissocia addirittura dal boiardo, si rovesciano i ruoli nel finale di questo film. Anche qui diciamo dava l'idea che esistesse una sorta di congrega, di consorteria, allora venivano chiamati gli invertiti, Carbonara, quasi, i sodomiti, cioè, usavano dei termini che, ancestrali, biblici per definire l'omosessualità, che vivessero una loro, come accadeva realmente, una loro vita di setta parallela, sotterranea, in cui le uscite allo scoperto erano sempre attraverso un riconoscimento misterioso. Tognazzi si mette il burro cacao, viene riconosciuto, dice dei nostri, e quindi può entrare nel festino segreto. E questo infatti è ancora uno sguardo altro, non è uno sguardo particolarmente, è un po' cinico se vogliamo, esalta esagera le caratteristiche, le rende un po' caricaturali, ma proseguendo il nostro percorso scopriremo altre sfumature. 800240024, mi rendo conto che c'è un po' di riluttanza a parlare in questi termini dell'omosessualità. Una volta sgravata di questo aspetto alleggerita, di questo aspetto retrogrado, pudibondo, mascherato, limaccioso, vedo che c'è un po' di difficoltà a parlarne, sarebbe più facile parlarne in termini politici e in termini contemporanei. Noi invece dobbiamo, ci piace questa mattina andare a scavare laddove ancora rappresentava qualcosa da prendere con le pinze. 800240024. Il Caridano non faceva roba con nessuno, che si lo passa per lui. Quello è un maschiaccio sempre pieno di donne. Allora, problema suo? Sì. Impotenza? Peggio. Qualche problema di omosessualità? Roba di froci. Ho scoperto che mi piacciono uomini. A lei? E da quando? Dall'altra sera. È una componente molto frequente. Molto frequente. Spesso si sviluppa in tarda età. Ah, ecco. Vediamo di scoprirne insieme la matrice. Ben volentieri. Da piccolo la vestivano da femminuccia? Ma chi, a me? Lei piaceva giocare con le bambole? Non mi pare. Oddio, qualche volta gli levavo le mutandine, ma per vedere come erano fatte. Qualcuno della sua famiglia aveva forse tendenze... Oh, per carità, a casa mia erano maschi pure le femmine. Giuseppe Sansonna, qua siamo già in una fase più avanzata, sì. Cos'è? Gli anni 80? Siamo all'inizio degli anni 80, 82, testo croce di Nanni Loi, che ritrae il suo solito gruppo di attori, un Manfredi truce muratore con tanto di martello pneumatico e occhialoni antiriflesso che scava bitume nelle strade, versa bitume nelle strade, e ha questo figlio che gioca nelle giovanili della Roma e che un giorno scopre avere tendenze, apparentemente lo scopre sotto la doccia, che ha fatto la doccia insieme a un compagno di squadra, e da lì viene arrovellato dal dubbio a un padre, Paolo Stoppa, che è uno stalinista maschilista, poi trucissimo. Paolo Stoppa perfetto come sempre in questi ruoli di contorno, e quindi si deve rapportare a qualcosa che è completamente fuori dal suo abecedario, dal suo immaginario, dalla sua struttura mentale, e quindi da lì viene arrovellato dal dubbio, prova a fare un'analisi di che cos'è l'omosessualità come malattia, o come, cioè, lui la interpreta come malattia, e quindi cerca di rapportarsi al dottore per farsi curare. Da un Maurizio Micheli implacabile anche in questi ruoli, anche, ecco, questo è un altro di quei caratteristi perfetti che purtroppo sono un po' spariti dal cinema italiano. Micheli è perfetto nel rendere il rapporto asettico con questo rude, che addirittura dice di essere lui omosessuale pur di non ammettere che è suo figlio, e quindi si scatena un dialogo platonico sull'omosessualità. È un po' negli stessi anni nasce Drive-In. In Drive-In c'è un personaggio che assomiglia molto comunque al dramma paterno espresso in questo film, che è Vito Catozzo, espressione Giorgio Faletti, che poi è diventato un grande romanziere, un grande scrittore italiano. Allora faccia il comico. Questo Vito Catozzo era una rozzissima guardia giurata con un panzone, con un pistolone, super macio, che si vantava di atti sessuali sproporzionati con una moglie orribile, che al posto della Gepier si mette dei parafanghi delle automobili per far capire quanto fosse surreale tutto, che ha un figlio che chiamava appunto Adriano Celentano, o Ronzo Adriano Celentano Catozzo, che palesemente dava segni di un'attitudine diciamo all'omosessualità, e lui lo nega a se stesso, e quando gli dicono: ma sai, vedo mio figlio pieno di rossetti, di farde, di cipri, dico: ah, furbastro, per fare regali alle donne, dice, perché se a me, se mi nascesse un figlio orecchione, l'ammazzerei subito. Ecco, si vede che in quei tempi cominciava a emergere comunque il desiderio, la volontà, la civilizzazione diffusa e condivisa, che fosse qualcosa che doveva rientrare nel rango comunque delle attitudini di cui tranquillamente si poteva fare espressione, però c'era questo senso, diciamo, di impatto generazionale molto forte. Sì, poi c'è l'anamnesi che gli fa Manfredi, qui Micheli, e lui emerge una frase in cui Manfredi dice: a casa mia erano maschi pure le donne, cioè certe braccia, certe, cioè era inconcepibile una emersione, anche un rapporto col proprio lato femminile, insomma era tutto un tabù ancora fortissimo, sia negli stati popolari che quelli più colti, se vogliamo. Ti spiego mai Giuseppe non sta telefonando nessuno? No, me lo domando, non accade mai. Io potrei parlare della bottiglietta di plastica vuota di acqua minerale qua davanti, qualcuno avrebbe qualcosa da dire. Questo tipo di approccio disteso, non connotato da nessun tipo né di etiologia né di giudizio né di pregiudizio su un excursus cinematografico, o lascia indifferenti le persone o lascia le persone impossibilitate a esprimere un parere. Guardate che mica significa fare un coming out o prendere posizione, semplicemente dire come vedevate al tempo in cui l'omosessualità era trattata in questi termini nel cinema, che in fondo era l'espressione popolare più vicina al sentire comune, come abbiamo visto in tante occasioni assieme a Giuseppe Sansonna. Ma vedo questa mattina siete un po' bloccati. Andiamo avanti. Madame, je voudrais présenter une amie à moi qui voudrait avoir l'honneur de faire votre connaissance en Guinée. Très joli garçon, n'est-ce pas? Et il parle notre langue? Non, madame, il est italien. Italien? Et de quelle cité? Maître, sapez à côté de Venise? Oui. Venise, Venezia. Et vous avez une gondole? Oui, madame, langue comme ça. Pas de vulgarité, n'est-ce pas? Pas de vulgarité. Escapé. Allez, allez, allez, allez, allez. Nam, se le va. Splendori e miserie di Madame Royale. Del 70 di Vittorio Caprioli, questo è un proto vizietto in cui Tognazzi fa l'ex. Comincia a prendere le misure col personaggio. Poi. Sì, infatti raccontò, dice: per fare questo film mi sono spinto in zone molto oscure e mi sono divertito, mi sono anche molto inquietato per essermi divertito. Quindi, e in effetti qui c'è una misura, non c'è la riduzione a stereotipo, a macchietta, è molto cauto, è molto delicato nel rappresentare questo omosessuale, e per la prima volta si racconta una realtà romana nel 70, la realtà che poi in Pasolini c'era, ma a un livello anche più intellettuale. Qui è più antropologico, i luoghi di incontro notturni vicino al Colosseo, il parco di Monte Caprino, che è un altro luogo vicino dalle parti, soprattutto il travestitismo, che sembrava qualcosa che appartenesse soltanto al mondo dello spettacolo, quello che Susan Sontag definiva il camp, cioè la parodia, travestirsi anche, appunto, questi tranvieri, questi corniciai, questi macellai che si riunivano in casa di Madame Royale alias Tognazzi per giocare a fare la geisha, a fare una sorta di Versailles e rivoltarsi un po' contro una società che un po' li emarginava. 800 24 00 24, vedete di prendere fiato e farvi coraggio tra un istante dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. No. Che ha fatto ora? E quello sarebbe il modo di camminare, secondo te? Perché no? Ma se stasera cammini così, siamo fregati. Come devo fare? Vieni qua, vieni. Non strillarmi, eh? Prova a camminare alla John Way. Ah, da duro. Bravo. Cioè? John Way scende da cavallo, si avvia verso il saloon, apre la porta e zac. Prova anche tu, dai. Devo fare John Way? Prova. Io duro. Ma questa è la sorella di John Way. Guarda che frocia. 800 24 00 24, stiamo parlando del punto di vista sull'omosessualità nel cinema degli ultimi 30-40 anni. Mi stanno arrivando almeno messaggi su Facebook, dove le persone forse più protette raccontano e parlano. C'è chi mi cita Gli occhiali d'oro, un romanzo di Bassani, un film di Montaldo, e chi mi racconta che su YouTube c'è la scena tagliata del Casanova di Fellini, in cui Sutherland racconta di questo suo bacio dato a un ragazzo di colore su una gondola a Venezia, che fu tagliato poi dalla parte iniziale, dalla parte finale dal film, che poi è stato messo nelle sale, mandato nelle sale. E abbiamo sentito Tognazzi nella sua evoluzione rispetto a quanto avevamo detto prima di Madame Royale, il vizietto. Ieri sera su un canale Sky c'era il vizietto parte seconda, in cui in realtà si arriva alla perfezione di questa coppia. Sì, la coppia strepitosa di attori Tognazzi-Serrault, doppiato in italiano da Oreste Nonello, rende benissimo, anche se indulge un po' lo stereotipo. Parlavo con un amico gay che mi raccontava come lui percepisse questo film più vicino allo stereotipo, ma comunque molto divertente, molto rispettoso, mentre Splendore e miseria di Madame Royale molto vicino, in realtà molto più aderente a una sorta di mimesi della tanto lì c'è un rapporto con Maurice René, che è il commissario, molto alla Genet, questa sorta di innamoramento da parte del delinquente, del personaggio un po' losco, verso il tutore dell'ordine, no? C'è questa, invece qui c'è una coppia che vive questa commedia degli equivoci, in cui poi Michel Serrault dovrà fingere di essere la moglie, addirittura fare la donna. Sì, perché vanno nella famiglia arcaica di Tognazzi, di cui poi una sorta di buzzurro si innamora della moglie. Poi Tognazzi, no, perché l'equivoco nasce perché Tognazzi ha avuto un figlio da una relazione etero, e che questo figlio si fidanza con una ragazza, figlia del grande moralizzatore, di un ministro conservatorissimo, e quindi ci deve essere l'incontro, e qui si scatenerà questa sorta di articolatissima e complessa commedia degli equivoci, con il commesso, il loro cameriere nero ricciuto, che deve cercare di contenere le sue intemperanze. Insomma, è un film che che libera, che rappresenta l'omosessualità vissuta con leggerezza, tocca un po' la macchietta, ma si mantiene equilibrato nella sostanza. Ecco, fondamentalmente però è articolato su una vera, concreta, reale storia d'amore coniugale. Sì. Questa è la verità. è una coppia a tutti gli effetti, con gli screzi, con i problemi, con le incomprensioni, con le trascuratezze tipiche di una coppia. Tognazzi fa il maschio a tutti gli effetti, anche se con la moglie... le gelosie, perché poi il vizietto nasce dal fatto che Tognazzi ha il vizietto di guardare ancora le donne. Sì, ogni tanto poi, andare con le donne. Poi si è rovesciato nella vulgata. Ma... Allora, Antonio da Roma, buongiorno. Ecco, buongiorno. Finalmente, vi siete fatti coraggio. No, io volevo proprio citare il vizietto perché, almeno per me, è un film che c'ha anche, diciamo, un aspetto estremamente umano, nel senso che in fondo la conclusione del primo film è che i migliori, anche da un punto di vista proprio umano, sono proprio i gay. Perché? Che non è manco vero, detto fra noi, perché essere migliore. Aspetti, no, mi volevo finire. Mi riferisco al film. Perché dico che sono i migliori nel film? Perché in fondo chi cresce veramente il figlio di Tognazzi sono proprio loro, chi lo cresce bene, sano, tant'è vero che questo poi si sposerà con una ragazza, eccetera, mentre la moglie di Tognazzi è un capitano d'industria, ne conviene tutti colori, eccetera. E poi loro aiutano a scappare proprio il politico francese che li odia dai giornalisti, evitandogli, diciamo, un crollo politico. Quindi in fondo proprio sono d'accordo quello che diceva il critico, è un film di macchietta, però in fondo escono fuori proprio come i personaggi più umani. Sì, perché si matura una solidarietà tra persone che devono vivere un'emarginazione oggettiva nella società, possono fare soltanto la cage aux folles, lo spettacolo, mettono in scena la loro natura per poter avere una possibilità comunque di vivere serenamente anche la loro natura. Questo è il problema. È un film che sfiora la macchietta, ma si mantiene molto sensibile nel rappresentare poi l'alterità reale e fra la libertà, il modo di vivere libero, e la retorica, la morale, è quella sì, da cancellare, polverizzare completamente. Federica, sì? Da Biella, eccola. Sì. Io appunto volevo individuare, cioè parlare anch'io del vizietto, perché è stato un film che ho visto, due o tre mi pare fossero i film fatti, ed è stato veramente un film che ha un po' sdoganato già anche la convivenza tra gli omosessuali, in questa Francia più liberista rispetto all'Italia, tant'è che Tognazzi era l'italiano che è andato a vivere in Francia e si era fatto questa vita, diciamo, quasi legalizzata e riconosciuta da tutti gli abitanti del paese, non so se fosse Saint-Tropez o che cosa fosse. Infatti quando torna al paesino per la latitanza deve fingere con la madre che naturalmente lei, è sposato con una donna. Che lei sia una donna, esatto, quindi anche questo. E poi vabbè, c'è la parte veramente, se vuole, esilerante che viene sempre quando un uomo si traveste da donna e vuole imitarlo, ecco, questa è la parte forse debole proprio dell'omosessualità, e quando c'è il travestito, io trovo diventa ridicolo, forse lo so, è il vero dramma di ogni travestito, che alla fine è una macchietta, per quanto sia, è sempre un'emulazione fallita di un modello irraggiungibile, che è quello della donna. Questo va da sé, è chiaro, però ognuno fa quello che può. Antonio da Roma, buongiorno. Antonio da Roma, abbiamo già parlato, allora andiamo avanti. Giancarlo da Torino. Pronto? Sì, eccomi. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo un po' rivedere un attimino quello stereotipo dell'omosessuale, del gay, sugli ambienti di lavoro. Io negli anni 70 avevo poco più di 20 anni, e quello praticamente che veniva rappresentato in questi film. Comunque negli anni 70 avevo più o meno 20 anni, lavoravo in officina, lavoro ancora adesso in officina, e queste persone si nascondevano. Però si cominciava a vedere qualcosa. Io avevo un mio compagno che all'inizio con una certa dose di ironia cominciava a venire, me lo ricorderò sempre, un giorno è arrivato vestito tutto di giallo, no? Cioè il suo era un modo come un altro per farsi conoscere, cioè vestito da capo a piedi di un giallo. Coming out graduale, diciamo. Sì, come dire. Però quello che colpisce è che in un ambiente come un'officina meccanica, quindi queste rappresentazioni del truce, del Vito Catozzo, delle cose, non è vero, è come dire, l'abbiamo poi accettato tranquillamente, senza nessun problema. Certo, gli scherzi, come dire, la battuta un po' grassa, come dire, c'era, ma però era accettato tranquillamente, senza nessun problema, questo problema, ritengo, era più un problema della borghesia, della... Esattamente, la rispettabilità impediva questo tipo di libertà. È vero, anch'io ricordo che negli ambienti rurali e paesani della mia adolescenza c'è una classificazione, oddio, spesso erano oggetto di scherno, di delusione, ma poi alla fine c'era una sufficiente omologazione rispetto a quello che erano gli ambienti borghesi, in cui sapeva tutti che quel bancario, quell'altro avvocato, quel medico, pur essendo sposati con figli, nottetempo li si vedevano camminare strisciando lungo i muri, in luoghi difficile ambiguità. Sapeva benissimo chi andava lì, andava a cercare certe cose, si passava, faceva parte dei passatempi notturni degli scavezzacollo, andare a vedere nel luogo in cui i signori andavano a incontrare nottetempo queste avventure clandestine. Ma in ogni provincia italiana c'è stato questo, Giuseppe. Comunque, il vestirsi di giallo, questo è proprio puro camp alla Susan Sontag, cioè rovesciare le regole, irrompere attraverso l'artificio, mostrarsi in quello che si è, straniando l'ambiente, il contesto anche un po' virile, un po' cupo o un po' damaici, che può essere quello della fabbrica. E quindi invece voglio dire un'altra cosa sul travestitismo. A Bari c'è un caso singolare di un virilissimo fruttivendolo che da 30 anni fa pupetta, fa questo personaggio femminile, si mette una parrucca e va in scena sia alla radio che nelle commedie popolari e diventa una donna. È uno dei rarissimi, forse l'unico caso che abbia mai visto, in cui lui, l'ho conosciuto anche, ha una famiglia, questo anche un ruolo iper virile, cioè vendere la frutta a Bari, però riesce a diventarlo. Non c'è il cliché, non c'è la macchietta, lo diventa proprio. E lui mi raccontava, dice: io sono affascinato dai rapporti madre-figlia, osservo madre e figlia quando parlano e lì acquisisco l'infa. Ha una doppia natura subliminale che lui riesce a far emergere e fare sprofondare a richiesta. 800 24 0024, diamo velocemente la linea alle informazioni del traffico, poi continuiamo con le telefonate che stanno diventando tantissime. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Avanti, dillo. Tanto non è mica una cosa grave, sai. Vabbè, insomma, se è come penso io, un po' grave lo è, E ci sono tanti termini per dirlo. Quale vuoi usare? Omosessuale? Ricchione. Oggi si dice diverso. O meglio, culattone. Come dite voi? No. Guarda che questa volta l'hai detto tu, Sì, però tu lo pensi? Lo pensi? Vabbè, ma se me lo dici tu un po' lo penso, no? Ah, vedi che lo pensi. Va bene, lo penso, mi hai convinto. Allora, cosa devo fare? Me ne vado o mi picchi anche tu come quei fascisti? Ma che cosa c'entrano i fascisti? Non vorrei mica farmi litigare alle 2 di notte, no? E poi, quando ti ho incontrato, io non ho capito che tu eri uno di quelli là. Mica cammini come loro. Perché quelli là come camminano? Camminano così. Certo che... vedendo i vecchi film si intuiscono e si scoprono anche le radici, non so, di un Checco Zalone. Mi sembra di vedere il primo film in questo operaio metalmeccanico comunista durissimo che mandavano a fare i picchetti, che era fortissimo, Renato Pozzetto, si trova a dover fare i conti con un Massimo Ranieri omosessuale. Sì, la situazione economica è legata appunto a questo operaio che... il bamboccione assonnato però molto forte fisicamente, chiamato il Gandhi, che fa fidanzato con la Fenech, la strepitosa Fenech, che fa lavora alla mensa della fabbrica e fa la cicletta al mattino con lo sfondo delle Dolomiti, del poster, e tiene addirittura inchiodato al muro una falce inchiodata con un chiodo al muro con un martello, insomma, e oltre ai ritratti, alle iconografie gigantesche di Marx e di Lenin, va a vedere i film che Fantozzi derideva nei suoi film, insomma. E quindi però deve rapportare, si incrocia con, cioè lui è uno stereotipo, è lo stereotipo del macismo, dell'operaio macio, duro con la sua tuta blu sporca di vernice, e invece la grande trovata di Steno in questo film è mettere un Massimo Ranieri che fa un gay misurato, al di fuori di qualsiasi macchietta, molto delicato, molto poco inclina agli eccessi, e quindi l'incrocio fra i due Infatti si stupisce nella sua rozzaggine, dice: ma come, tu non sculetti, no? Non sei effeminato. Sì, sì. E non a caso era anche un gay politicizzato, erano gli anni in cui aveva la libreria gay che i fascisti infatti vanno a devastare. Iniziava, diciamo, la battaglia politica della gayezza. E poi andrà in Olanda nel finale del film a sposarsi con appunto, perché l'Italia è ancora poniamo in atto le contraddizioni del PC anche rispetto all'omosessualità. Questo è interessante. Sì, che erano grandi puritani, non potevano assolutamente tollerare cose del genere. Loredana da Genova. Buongiorno. Eccomi. Io ricordo con molta dolcezza un film, non ricordo il regista e neanche gli attori, si intitolava Una gelata precoce. È un film. Una giornata particolare? Come? Una giornata particolare? No, una gelata precoce. Ah, una gelata precoce. Sì, è un film che trattava la storia, appunto, l'omosessualità in una maniera, secondo me, dolcissima, bellissima. Vedere l'amore che c'era fra queste due persone era qualcosa di meraviglioso. Sì, è un film con Ben Gazzara, di un avvocato gay che si ammala di AIDS. Esatto. E lì appunto mi ha fatto proprio anche aprire un pochino la mente nei confronti, diciamo, di queste persone, anche se non ho mai avuto remore, devo dire la verità, perché ai miei tempi, quando ero ragazzina, c'era un ragazzo che lavorava con me, omosessuale, però per noi era comunque un nostro amico, non avevamo nessun tipo di remora nei suoi confronti, ecco. Andiamo avanti, grazie. Luca da Milano. Sì, salve. Io invece volevo segnalare Mimmi Metallurgo, se non l'avete ancora detto, perché secondo me è uno dei film più toccanti anche su questo livello, anche se racchiude una sua comicità, perché alla fine comunque sia il messaggio che mi ha trasmesso per me è che alla fine l'amore comunque sia di lui verso una persona, anche se dopo ha scoperto essere omosessuale, rimaneva anche fino alla ma fine. È sicuro in metallurgico? Non mi sembra. Fa un po' di conferire in metallurgico, è un po' diverso, è una vendetta. Sì. Ma alla fine lui dice, alla fine quando lui lo scopre che lui non è una donna, e poi dice va bene, allora fa niente. Niente, nessuno è perfetto, ma qualcuno piace caldo. Confondo un po' i titoli. Il metallurgico, anzi, è esattamente il contrario, arriva ad avere lo stomaco di possedere sessualmente l'orrenda moglie del suo rivale. Quindi, anzi, è uno sforzo sovrumano di mascolinità che va oltre ogni sforzo naturale. Ecco. Ma sovra eterosessualità. Marcello da Salerno. Sì, buongiorno. Io, come tanti altri, volevo segnalare anche io il mio film, che è Il Compleanno. Ah, lei è regista del film Il Compleanno? Sì, no, io, no. Ah, suo film, nel senso... Volevo segnalare Il Compleanno. Ah, il suo film. Perché tanti altri hanno segnalato il loro film. E poi volevo fare due considerazioni molto rapide. Uno, che mi ha colpito che nei festini di Berlusconi, di cui si parla di tutto questo machismo, comunque compare anche Lele Mora, che, se non mi sbaglio, si è dichiarato omosessuale. Ma che si sia dichiarato, guardi, non è così, poi saranno fatti suoi, adesso non è che ci interessi molto, perché la meraviglia comunque che abbia a che fare comunque una persona, ammesso che sia così, non ho documentazione sotto mano, ci sia dichiarato o no. Mi veniva questa nota di... Quale magnifico Lenone felliniano sarebbe stato Lele Mora, un volto felliniano straordinario. Come fa parte comunque, se vogliamo togliere tutto dalla realtà, visto che è ancora sotto giudizio, e vogliamo portarlo su un piano di fantastico romanzo, come molte volte lo vedo trattare, diciamo che ci sta comunque, è una figura che ci sta moltissimo, anche fisicamente, è la tipica figura di snodo in luoghi di crapula, ci deve essere sempre una sorta di bianco e paffuto signore che fa il service, diciamo che rientra nello stereotipo, ammesso che ci siano accertate realtà, comunque rientra nelle figure che ci devono stare. Greci. Eh sì, certo. E sa perché, signore? Per negligenza. Per un certo disinteresse all'esteriorità. Comprensibile in un personaggio importante. Ma non per questo lodevole. No. Anzi, proprio le persone come lei non dovrebbero essere schiave di preconcetti in fatto di naturalezza o di artificio. D'altronde, l'età che noi abbiamo è quella che il cuore e lo spirito sentono di avere. Nel caso suo, signor mio, si ha diritto al proprio colore naturale. Se permette, scusi. Qua siamo in un clima molto triste, diciamo la verità. È morta Venezia, qui sì, è trattata, ma è trattata come qualcosa di disgregatore. Beh, qui c'è l'accupio di Solvi, un altro degli aspetti, soprattutto dell'omosessualità letteraria. Qui nel corpo di Dick Bogart coincidono Thomas Mann, lo stesso Visconti, c'è l'artista che al termine della sua vita, malato di colera, che ha assunto da questa Venezia marcescente, decadente, dove gioca a nascondarello con lo splendido Tazio, girando per le calli con... Sceglie questa figura psicopompa di questo giovane Efebo che lo accompagna poi verso la scena finale, in cui il suo trucco, che in questa scena che abbiamo ascoltato gli fa il perfido Franco Fabrizi, il perfido metafisico eterno di tutti i film, lo imbelletta perché il suo trucco nel finale si sciolga sulla spiaggia e li possa morire, appunto, possa guardare la bellezza sullo sfondo che sfuma nel sole, quella di Tazio. Carlo da Modena. Buongiorno Nicoletti, salve. Io volevo parlare sono relativamente giovane, ho 33 anni, però ho visto abbastanza film del passato e notavo la differenza, per esempio, fra i film italiani nel passato rispetto comunque ai film più recenti, ma più quelli anglosassoni, dove l'omosessuale è un po' più, diciamo, meno effeminato e più normalizzato, o comunque vedevo che, cioè, comunque ha una è meno però devi considerare che 30 anni sono stati un passo avanti nella presa d'atto e nella civilizzazione rispetto ai comportamenti, diciamo, eterodossi, notevole, quindi c'è una differenza. Quello che dicevamo prima, la macchietta, il cliché in Italia hanno sempre rassicurato, hanno avvolto, a parte Madame Royale, che invece in questo era perfetta, ma anche l'imbalsamatore di Garrone, che non siamo arrivati a citare, racconta una vicenda omosessuale senza cliché, senza appesantire il trucco della macchietta. Anche Ernesto di Umberto Saba, quando arrivò al cinema, mi ricordo, a mia nonna prese uno sturbo pensando che il poeta scriveva alla moglie se come una giovane bianca pollastra avesse avuto comunque frequentazioni di quel tipo. Grazie Sansonna, grazie a quanti hanno avuto il coraggio di telefonare. A domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.